su CRM Happy Radio Déjà Vu, musica, informazione, poesia con Mary Catalano. Siamo pronti, sono pronta, siete pronti? Siamo pronti tutti quanti questa mattina per inaugurare questa nuova, questo nuovo appuntamento di oggi con Déjà Vu insieme a Mary Catalano. Il primo appuntamento di marzo, oggi è il primo di marzo e finalmente arriva, scusate, purtroppo ancora la voce è un po' così così, arriva il mese che ci porterà dritti dritti alla primavera, il mese di marzo che entra, devo dire, alla grande con il sole. Dopo che ieri sera praticamente il cielo si è sfogato abbastanza, ha piovuto tantissimo, stamattina ci regala questo bellissimo giorno. Martedì, primo marzo, ben trovati, CRM Happy Radio, Déjà Vu, Mary Catalano con voi, l'appuntamento che durerà circa 2 ore in mia compagnia con la musica, naturalmente, che anche voi potete segnalare al 335-56-37251. Ci sentiamo fra pochissimo. CRM Happy Radio. Standing in CRM, la musica che state ascoltando è proposta da America Talano all'interno di Deja Vu, questo appuntamento che vi accompagna il martedì e il giovedì dalle 10 a mezzogiorno. Ben trovati a tutti voi che vi siete sintonizzati solo da qualche istante. Anche io ho cominciato non più di tanto tempo fa, insomma pochissimo tempo fa, praticamente qualche 10 minuti fa circa siamo entrati in diretta. E in questo giorno bellissimo, devo dire, del mese di marzo, parliamo a proposito di marzo anche della festa della donna, che è appunto l'8 marzo, ormai è imminente, giusto? Appassionati di arte, allora esultate, soprattutto le donne, perché anche quest'anno il MIBAC celebra il connubio donna e arte, offrendo ingressi gratuiti ai musei nel giorno della festa della donna 2011. Il MIBAC infatti aderisce alla giornata internazionale in onore della donna e lo fa permettendo alle donne di entrare nei musei gratuitamente per ammirare le figure femminili che furono muse ispiratrici di pittori, musicisti e scultori, e soprattutto per poter vedere le opere delle donne dell'arte, quelle artiste che sono riuscite a imporre il proprio talento in un mondo dominato dai pregiudizi maschili e sociali. Non deve stupire l'iniziativa degli ingressi gratis nei musei nel giorno della festa della donna. Il ruolo delle donne nella società odierna è uno dei temi più dibattuti, con così tanti aspetti che si rischia di cadere preda delle strumentalizzazioni. Va bene, allora donne, se amate l'arte, se siete appassionate, sappiate che potrete entrare nei musei gratuitamente e ammirare le opere che le donne nel tempo hanno regalato. Benissimo, andiamo avanti con il nostro appuntamento. Vi ricordo il 335-56-37251 per i vostri messaggini. Vi ricordo anche la nostra pagina di Facebook, il nostro profilo. Interagite anche tramite internet al nostro sito www.crmpiradio.it e arrivano i Black Eyed Peas. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm

niente pro d'accanto, mentre tu li urli contro il pianeta da coi cavi. Non ha poi tanto senso se tu non sai ascoltare per un solo momento il diverso che ho da dire, il diverso che ho da fare, il diverso che sono io da te, che sei fin troppo uguale al pianeta che ti porti dietro e non vedi proprio al. A me resta il silenzio di quel che penso. Il silenzio. Perché tu sei di un altro pianeta e non vivi come me. Parli agli alberi al vento, non c'è niente che sia impossibile, tanto tu sei un altro pianeta e non vivi come me. Parli agli alberi al vento, non c'è niente che sia impossibile. Déjà vu su CRM Happy Radio. Give me the song and I'll sing it like I mean it. Give me the words and I'll say them like I mean it. Cause you got my heart in a headlock. You stopped the blood and made my head soft. And God knows you've got me so na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Danny boy, don't be afraid to shake that ass and misbehave. Danny boy, I know you got time, but what are you waiting for? Anyway, the dust may just blow away. Chances passed you by. I can't do the walk, I can't do the talk, I can't be your friend unless I pretend. So give me the song and I'll sing it like I mean it. You give me the words and I'll say them like I mean it. Got my heart in a headlock. You stopped the blood, made my head soft. And God knows you've got me sewn. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Danny boy, don't be a fool. Take a punt to break a rule. Danny boy. Yeah. donne all'ascolto, aprite bene le orecchie perché sto per darvi una notizia che riguarda Raoul Bova. Se vi piace tantissimo questo attore, beh, sappiate che arriva presto una nuova fiction per lui, dove lo vedremo nei panni di un uomo che si tuffa in piscina. Raoul Bova di solito con le fiction fa sempre il boom, ora messa da parte la divisa si butta in mare, e questa fiction è infatti un omaggio al mondo del nuoto. Si raccontano gli atleti che sanno affrontare le proprie debolezze, l'ansia della prestazione e il terrore di essere abbandonati quando non vincono. Una fiction prodotta assieme alla moglie Chiara Giordano dallo stesso Raoul Bova, ex nuotatore fra l'altro, e lui interpreta Alessandro, un campione di nuoto che al culmine del successo deve interrompere per motivi di salute, ma saprà trovare un nuovo scopo alla sua vita. Sembra interessante come fiction, lo vedremo presto dunque nei panni di un atleta nuotatore, Raoul Bova. Quindi donne, mi raccomando, occhi aperti quando arriverà in televisione questa fiction che lo riguarda. Intanto vi lascio con le news e ci sentiamo fra pochissimo. Sempre la musica di CRM Happy Radio, quella che state ascoltando all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano con voi sino a mezzogiorno, anche per questo martedì del primo marzo, una splendida giornata che ci fa immaginare, insomma, l'arrivo imminente della primavera prossima, poi della bella stagione. Insomma, sicuramente arriveranno altre giornate fredde e piovose, però insomma ormai passato febbraio, diciamo che l'inverno sta per abbandonarci. Che bello, eh? Già ci immaginiamo con gli occhiali da sole e il sole che ci batte sulla fronte, che ci scalda, i vestiti meno pesanti, già lo immaginiamo, eh? Sì, non vediamo l'ora che arrivi di nuovo la bella stagione. Nel frattempo oggi è proprio un bel giorno per andarsene in giro a far compra, a far spese, insomma chi può si faccia una bella passeggiata, una bella corsetta, perché insomma è una bella giornata davvero rispetto a quella di ieri, insomma approfittiamone, come si suol dire. Intanto è arrivato il momento del 3-4-1, tre singoli per un solo artista qui su CRM, protagonista Luca Carboni. 3-4-1. Fiore in bocca può servire, non si giurerà, ma dove vuoi far fallire, non vedi che sono qua, come un fiore, come un prato, fossi in te mi accorgerei, per raccontarmi, per esempio, come vivi tu. Potresti dirmi, sorellina, in cosa credi tu, cosa speri, cosa sono, da grande che farà, se ti blocchi contro il vento o spingi più che vuoi, se hai paura certe notti, ti senti sola, ma cosa sola dai, da non poterne più. Se ne hai bisogno come me, se hai bisogno d'affetto o di qualcosa che non c'è. Te tra gioia e dolore, che differenza c'è? Vuoi dei figli, sì dei figli, o non ci pensi mai? E il sesso è un problema, oppure no? Sembri libero, se sto a parlare con te, è che son solo, sorellina, così troppo solo. We'll be right back. 3-4-1. A quel tempo ero solo un ragazzo che stava cambiando la pelle. Non ero padrone di niente, ero un angelo fragile e ribelle. A scuola me ne fregavo dei voti, non volevo essere giudicato. Ma quanto entusiasmo che avevo e quanta voglia di imparare a volare. E che voglia di stare a ascoltare e conoscere tutte le cose. Ma i professori non insegnano niente, bisogna sempre fare da soli. Volevamo imparare a fregare il dolore, essere felici, imparare l'amore. Chissà se tu sei cambiata, chissà dove sei finita, in questo lampo di vita, chissà se sei stata amata. Se quella ferita, chissà se poi è guarita, in questo lampo di vita, chissà se ti sei salvata. A quel tempo eri una ragazza, nascosta tra i capelli e gli occhiali, un angelo ingenuo e ribelle. Che provava ad aprire le ali. E chissà se hai imparato a fregare il dolore. Se sei felice, se hai imparato l'amore. Chissà se tu sei cambiata, chissà dove sei finita, in questo lampo di vita. Se sei stata amata, chissà se la tua ferita, chissà se poi è guarita, in questo lampo di vita, che ci sembrava infinita. Chissà se tu sei cambiata, chissà dove sei finita, in questo lampo di vita, chissà se sei stata amata, chissà se la tua ferita. Se poi è guarita, in questo lampo di vita, chissà se ti sei salvata. Three, four, one. Suo bambino sempre gli occhi e piccolino. La mia ragazza è terra, è carne e sangue, dal suo seno nasce il grano. La mia ragazza è anima, spirito e preghiera, dal suo cuore nasce amore. Un raggio di sole che illumina la stanza, la mia ragazza è mia per sempre. Le tiene in braccio il mio bambino, degli occhi è piccolino, e tiene in braccio il mio bambino, apre il becco un uccellino. Infermiere ostetriche, pediatri e dottori, magie di pastori, e questo è il centro di tutto il pianeta, è in cielo la stella cometa, e tiene in braccio il suo bambino, apre gli occhi e piccolino, e tiene in braccio il mio bambino, muove le ali e un uccellino. A CRM all'interno del 3-4-1, ovvero tre singoli per un solo artista, protagonista Luca Carboni, lo abbiamo ascoltato in sequenza con Farfallina, poi Lampo di Vita e ultimo La mia ragazza, che è ancora in sottofondo. Allora, è arrivato il momento di dare spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra pochissimo, continueremo con la musica richiesta anche da voi al 335-56-37251, sempre America Talana e microfoni con voi sino a mezzogiorno. CRM Happy Radio. Yeah. This Now, il nuovo singolo per i Duran Duran che tornano ed esce proprio il 21 marzo dopo l'antipasto di dicembre. All You Need Is Now, il singolo che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, il nuovo album dei Duran Duran, dunque proprio il 21 marzo, il giorno in cui entrerà ufficialmente la primavera. La band inglese è stata 4 giorni a Milano ultimamente in coincidenza della settimana della moda per lanciare il nuovo lavoro che li riporta alle sonorità delle origini. Siamo insieme da 30 anni, hanno detto, ma guardiamo al futuro. Del passato non rinneghiamo nulla, siamo felici di dove siamo arrivati, direi. Una trasferta milanese in cui il gruppo è stato protagonista di molte forme. Ospite alle sfilate, insignito di beneficenze da parte del comune. Il palco dal vivo per uno showcase a Invite organizzato da Vogue Italia, che ha scatenato l'entusiasmo del pubblico del Teatro del Verme. Insomma, c'erano VIP e poi fan che erano scatenati nel vedere i quattro cimentarsi nelle loro canzoni più belle, e i quattro hanno così unito l'utile e il dilettevole in attesa della pubblicazione dell'album che, grazie allo zampino di Mark Ronson, ha segnato un ritorno alle sonorità delle origini coniugandole ad un sound estremamente moderno, tanto che pur senza una grande major alle spalle il singolo All You Need Is Now si è fatto strada nelle radio diventando uno dei brani più passati degli ultimi tempi. E devo dire che effettivamente si fa un ritorno al passato nelle sonorità di questo singolo, lo possiamo praticamente tastare con mano, anzi con le orecchie, ascoltandolo questo brano che appunto è già passato all'interno di Déjà Vu insieme a Mary Catalano, che riscopre un altro grande successo però questa volta del passato, Like That Family. La canzone si chiama Aig. 335-56-37251 è il numero per voi. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Lighthouse Family a CRM con AIG e fra poco anche Laura Pausini. CRM su CRM Happy Radio. Storia che vale, Laura Pausini qui a CRM, richiesta da Mariella al 335-5637-251 ed è attesissimo il ritorno di Laura Pausini. E per il prossimo 11 novembre è prevista l'uscita di un nuovo disco e da dicembre la cantante tornerà sul palco con 11 indimenticabili eventi a Milano e Roma che fanno da cornice al suo grande rientro sulle scene. Ed è già caccia al biglietto naturalmente, il tour aprirà nel capoluogo lombardo il 22 dicembre e resterà al Mediolanum Forum il 23, 25, 26, 28 e 29 dicembre. Sarà poi la volta di Roma dove Laura festeggerà il Capodanno con i suoi fan in una notte che si preannuncia indimenticabile. Nell'anno nuovo la capitale la vedrà protagonista ancora con altri appuntamenti alla Palla Lottomatica l'1, il 3, il 4 e il 6 gennaio 2012, quindi se volete potete già pensare di acquistare il biglietto se proprio amate questa artista straordinaria. A 2 anni dall'album ultimo e dall'ultimo tour mondiale che ha registrato sold out in tutte le tappe, Laura Pausini dunque torna in quella che si annuncia già come una nuova emozionante avventura da non perdere assolutamente. E fra poco un'altra bellissima canzone tutta italiana dal Festival di Sanremo per quanto riguarda le nuove proposte. Il vincitore è qui su CRM all'interno di Deja Vu. CRM Happy Radio Deja Vu con Mary Catalano. Mm-hmm. sì, dire mai non è facile, sai. Se tutti quanti siamo in orbita nella follia, io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia. Ma vedrai un altro me in un sogno fragile, riderai come se non ti avessi amato mai, cercherai un altro me, oltre l'ombra di un caffè, troverai solo me, se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night, e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia, e vedrai un altro me, disarmato, fragile, perché quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu, come il tempo a correr via, ma rimani con me, non mi perdo neanche un solo attimo. Ed è proprio la rivelazione del Festival di Sanremo di quest'anno, se l'è meritata tutta la vittoria per quanto riguarda i giovani e insomma le novità di questo Festival di Sanremo, Rafael Gualazzi e questa canzone bellissima che si chiama Follia d'amore. Per certi versi la voce di questo ragazzo mi ricorda un po' quella di Pino Daniele, non so perché, un po' ce l'ha secondo me il timbro. Va bene, ancora musica insieme a Mary Catalano, con voi sino a mezzogiorno. Intanto vi ricordo il 3355637251 per i vostri messaggini, vi ricordo anche il nostro profilo internet che potete appunto seguire con Facebook, e poi www.crmepiradio.it, potete seguirci anche tramite il nostro sito web. E adesso arriva Dr. Dre con Eminem, I Need a Doctor, qui su CRM a Deja Vu. Praying black hope, I just need a red act, cause no one sees my vision when I play it for them. They just say it's whack, but they don't know what dope is, and I don't know if I was awake or asleep when I wrote this. All I know is you came to me when I was at my lowest. You picked me up, breathing life in me. I owe my life to you. Before the life of me, I don't see why you don't see like I do. But fucking be my mentor. I can endure no more. I demand you remember who you are. It was you who believed in me when everyone was telling you don't sign me. Everyone at the fucking label, let's tell the truth. You risked your career for me. I know it as well as you. Nobody wanted to fuck with a white boy tramp crying in this booth. You saved my life, now maybe it's my turn to save yours. But I could never repay you. What you did for me is way more. But I ain't giving up faith, and you ain't giving up on me. Get up, Dre. I'm dying, I need you. Come back for fuck's sake. I'm about to lose my mind. But I still remember the shit like it was just yesterday, though. You walked in, yellow jumpsuit, whole room, crack jokes. Once you got inside the booth, told you, like smoke. Went through friends, some of them I put on, but they just left. They said they was riding to the death. But where the fuck are they now? Now that I need them, I don't see none of them, all I see is Slim. Fuck all you fair weather friends, all I need is him. Fucking backstabbers, when the chips were down, you just laughed at us. Now you about to feel the fucking wrath of aftermath, faggots. You gon' see us in our lab jackets and ask where the fuck we been. You can kiss my indecisive ass, crack maggots and the cracker's ass. Lil' Cracker Jack beat, making whack ass backwards producers, I'm back, bastards. One more CD and then I'm packing up my bags. And as I'm leaving, I guarantee they'll scream, Trey, don't leave us like that, man. Cause I'm about to lose my mind. You've been gone for so long. I'm running out of time. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Eh già. Sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va. Non c'è niente da cambiare. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà, con l'aria, col sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole, io sono ancora qua, eh già, io sono ancora qua. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù. Più giù, più su, più giù, più su. più su, più su, più su, più su, più su, più su, più su. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende alla malinconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido cosa succederà. Col cuore che batte più forte, la lotta da passare, al diavolo non si vende, io sono ancora qua. Da pochissimo tempo in circolazione questo singolo di Vasco Rossi, è già un successone, si chiama È Già, sempre super richiesto al 3355637251. Manca mezz'ora alla fine di questo appuntamento di oggi insieme a America Catalano con voi. Vi do appuntamento fra poco con la musica che naturalmente richiedete anche voi, ma prima l'appuntamento con le news. Déjà vu su CRM Happy Radio. So la parte che mi fai, diversa come tante, che sorriso inventerai. Ho i sensi deboli e pensi che non tremi. Io lo so che sguardo naviga al largo di quegli occhi. So chi scioglierà come fumo l'incantesimo, ma poi mi brucia dentro la tua sete, il mio tormento, e sei l'unica voglia che non vorrei più vista piangere. Sono il tuo passato ormai. So la colpa che ti dai qui dietro la mia porta. Quale scusa inventerai? Stai di vetro in un replay, un sole che tramonta. Senza più confini, stella persa tra i miei cieli, e sei l'unica voglia che non vorrei più vista piangere su di me, ma sono il tuo passato. Questo incantesimo andrà via, ora che non sei più mia. So che un fuoco splendido lo accendi e dura poco. So che scioglierò io per primo l'incantesimo. Già lontano ormai. Salutiamo Paolo che ci ha segnalato Neck con La voglia che non vorrei, e qui a CRM all'interno di Déjà Vu insieme a Mary Catalano. E siamo nel mese di marzo, marzo pazzerello, guarda il sol, prendi l'ombrello. Oggi non sembra il caso però di prendere l'ombrello, anche se non si sa mai, questo venticello che c'è in giro, che c'è nell'aria, mi sa proprio che potrebbe anche portare qualche nuvoletta più tardi, non si sa mai. Comunque non facciamo gli uccelli del malaugurio e parliamo di questo mese di marzo, che è anche uno di quei mesi insomma un po' particolari, perché appunto alterna giorni bellissimi a giorni pieni di pioggia. È uno dei luoghi comuni che riguardano questo mese e anche il fatto che coloro che sono nati nel mese di marzo sembrano meteorologicamente instabili, proprio come il periodo, altrettanto imprevedibili coloro che hanno visto la luce in questi 31 giorni. Dunque, ma cosa c'è di fresco e di buono sui banchi del mercato che possiamo portare in tavola in queste fatidiche giornate? Casalinghe, cuoche, cosa state cucinando a pranzo? Vi do qualche dritta, magari vi suggerisco dei finocchi, carciofi, cavolfiori, insalate varie e tutte le verdure invernali. Marzo però porta con sé anche qualche anteprima, qualche primizia già che già fa primavera, potrebbero essere gli asparagi oppure il songino, ravanelli, che buoni questi ultimi. Possono essere un po' cari, ma una volta tanto si può fare un po' lo strappo alla regola e servire così un bel mazzo di asparagi al burro, magari con formaggio e uova, che ne dite? Oppure delle verdure invernali, insomma, dalle quali si possono comunque inventare ancora piatti nuovi. Per esempio i finocchi si possono presentare fritti, appena sbollentati, passati nella pastella e impanati come quando si fanno le cotolette alla milanese. Insomma, sbizzarritevi voi casalinghe, che magari in questo momento avete finito le faccende di casa e l'unica cosa che vi resta da fare è proprio quella di preparare il pranzo. Non parliamone, perché già mi viene l'acquolina in bocca a pensare che fra poco sarà il momento di mangiare. C'è un languorino a quest'ora, qualcuno va a fare la terza, quarta colazione, qualcuno pensa già al pranzo. Va bene, nel frattempo noi pensiamo alla musica anche, che è una delle prime protagoniste di questo appuntamento, anzi la prima assoluta protagonista. E arriva Elton John con una bellissima canzone di alcuni anni fa che si chiama I Want Love. Elton John, fra poco spenderemo qualche parola che riguarda proprio questo grande artista. I want love, but it's impossible. A man like me, so irresponsible. A man like me is dead in places other men feel liberated. And I can't love shop full of holes. Don't feel nothing, I just feel cold. Don't feel nothing, just old scars. Clean and smooth. John si farà in due il prossimo 2 aprile, quando sarà chiamato sia a condurre il popolare programma televisivo statunitense Saturday Night Live, sia ad essere l'ospite del medesimo programma, insomma l'ospite musicale. La trasmissione è familiarmente chiamata SNL, va in onda su NBC dal 75. Sir Elton John, che apparirà con Leon Russell, col quale ha recentemente pubblicato il suo ultimo album The Union, era apparso per l'ultima volta sul palco del SNL nell'82, quando eseguì MT Garden e Ball and Chain. Il doppio impegno del Rocket Man è stato rivelato alla sua festa pop Oscar, alla quale hanno tra gli altri partecipato Kelly e Sharon Osbourne e il regista Baz Luhrmann. Al party, Sir Elton John ha messo in palio un ingresso VIP per la puntata di SNL. Il pass è stato aggiudicato con i preventi che saranno assegnati alla fondazione anti-AIDS di John per la cifra di $75,000. Benissimo, Elton John, anche lui protagonista all'interno la scaletta musicale di Déjà Vu con Mary Catalano con voi ancora per un quarto d'ora. Arriva anche Nelly. I used to buy myself on being the other man, but now it's flipping. I don't want you in no other man. Why can't you understand that anything I'm offering? I gave you the world, but you just want it argument. From the time I picked you up until the time I dropped you off again. Even flipped out on me at the mall again. It's all his fault again. That's what you're telling all your friends. I ain't pointing fingers, ma. I just wanna call again. See how your day going. I know they're stressing on you. I know them times get hard. That's why I'm checking on you. It's yours truly, ma. I got a little message for you. Anything he can do, girl, I could do it better for you. When we laugh and we cry, it's together. Through the rain and the stormiest weather, we gon' still be as one. It's forever, it's forever. Won't you come on and go with me? Come and go with me, ooh, girl. Come on over to my place. My place. Won't you sit yourself down and take a seat and let me ease your mind, girl. Told a friend that told a friend of mine that you was thinking that we should do it one more time. If this ain't the truth, then hopefully it's not a lie. Cause I ain't got no issues, we're hitting that another time. We never had a problem getting it done. Disagreed upon a lot, ma, but the sex wasn't warm. And check it, I know you get excited. Still, we knock around and bite it. Girl, we frowning up and quit acting like you don't like it. I know you like it, like you really it. Like it. together through the rain and the stormiest weather. We gon' stay be as one as forever. Forever. Nelly a CRM Happy Radio con My Place. Noi ci ritroviamo qua fra pochissimo con un altro successo di qualche anno fa. Su CRM Happy Radio. I can't handle it. It's just taking too long. Had enough of it. Decisions made, I'm gone. See you struggling. You're suffering, but I'm through with it. No more to do with it. See, I don't wanna come across as the insensitive type, no. But the truth be known, I'm lost. All my patience you have tried. I lost all sense of time. You caused this mix up in my mind. You tied me out. I'm feeling strung out, yeah. Baby, I set the tone. Made me step out of this on my own. Acting like nothing's wrong. Needed time out to just be alone. Understand, you don't own this man. Baby, I set the tone, yeah. Not one part of me is feeling neglected. Come to think of it, a lot of time wasted. All that worrying, all for nothing. Now I'm free of it. That's why I've ended it. See, I don't wanna come across as an insensitive type, no. But the truth be known, I'm lost. All my patience you have tried. Lost all sense of time. You caused this mix up in my mind. You've tied me out. I'm feeling strung out, oh. Baby, I set the tone. I set the tone. Made me step out of this on my own. Acting like nothing's wrong. Hey. Needed time out to just be alone. Understand. You don't own this man. Baby, I set the tone, yeah. I set the tone. Nat James, Set the Tone, qui su CRM Happy Radio. La musica più bella di oggi, di ieri, la trovate appunto con noi di CRM Happy Radio. Ovunque voi siate, ci potete seguire tramite il nostro sito al www.crmhappyradio.it. Anzi, un saluto a tutti gli internettiani che sono all'ascolto già dall'inizio di questo appuntamento, che va in onda il martedì e giovedì, come sapete, dalle 10 a mezzogiorno. Siamo quasi in conclusione anche per quest'oggi, dunque. Oggi è martedì 1 marzo e chiudiamo in bellezza con un'altra chicca del passato, che riguarda questa volta Yosun Dur, con un successone di non più pochi anni fa, ma molti anni fa ormai sono. Nenan Sherry, protagonista insieme a lui per 7 Seconds, una canzone spettacolare per chiudere l'appuntamento di oggi insieme a me con Deja Vu. It has no concept of the tone of skin. comme les réseaux qui nous poussent d'échanger tout. J'aimerais qu'on oublie leurs couleurs pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. Grande canzone per chiudere in bellezza questo appuntamento insieme a Mary Catalano con Deja Vu su CRM Happy Radio. Naturalmente io rinnovo il tutto a giovedì prossimo e non posso far altro che ringraziare tutti quelli che hanno interagito con me, che hanno mandato sms ai nostri numerini, che insomma in qualche modo si sono fatti vivi e hanno fatto sentire la loro presenza. Io vi auguro un buon proseguimento per questo giorno bellissimo del 1° di marzo. E naturalmente vi lascio con la musica che continua fra pochissimo su CRM Happy Radio. Vi lascio anche con gli appuntamenti pomeridiani. Vi ricordo anche On The Road insieme a Roby D'Antoni. Poi non dimentichiamoci gli appuntamenti con Isa e Iaco. E poi tutta la musica insomma che potete seguire, che vorrete seguire qui su CRM Happy Radio insieme a noi. Bye bye, a giovedì prossimo.